in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi molti aggiornamenti sulla situazione dell'emergenza sanitaria e poi naturalmente anche economica e sociale, perché ci sono le regioni che passano da rosse ad arancioni, da arancioni a gialle, insomma un po' di novità da quel punto di vista, e poi anche naturalmente su quello dei ristori e poi infiniti retroscena politici ai quali accennerò perché occupano intere pagine dei giornali. Ma esattamente come accade ormai da settimane, quello che viene detto oggi magari potrebbe essere smentito domani e poi controsmentito il giorno successivo, quindi ripeto, ne darò conto quando si tratta di interviste molto importanti, ma la sostanza e la realtà stanno altrove, diciamo così. E da qui la prima pagina del Sole 24 Ore, che si occupa dei decreti ristori, che sono quelli che devono tamponare più che l'emergenza sanitaria, che è ancora in corso, quella economica e sociale. Debiti delle famiglie, bollette e affitti. Così il Senato cambia i decreti ristori, e trovate tutti i dettagli alle pagine 2 e 3. In prima pagina, richiamato anche l'altro tema di politica e di economia internazionale molto importante, che è quello della Brexit, perché come abbiamo spiegato nei giorni scorsi anche durante Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, i tempi, le ore stanno proprio scadendo per trovare un accordo che non sia hard, che non sia una no deal Brexit, cioè un'uscita dall'Unione Europea, del Regno Unito, ma, e quindi da qui i due articoli di Luca Orlando e Beda Romano, trattativa a oltranza, ma restano solo 24 ore per evitare la rottura con l'Unione Europea. Lo ricordo ancora una volta, parliamo di una uscita dell'Unione Europea, del Regno Unito dall'Unione Europea, decisa da un referendum del giugno 2016. Sono passati più di 4 anni e non si è riusciti. Le responsabilità sicuramente saranno da entrambe le parti. Nel Regno Unito, tra l'altro, lo sappiamo, c'è anche stato un cambio di governo importante all'epoca della Brexit, all'epoca del referendum. Il primo ministro, che poi si dimise, era David Cameron. Arrivò Theresa May, che non riuscì a portare avanti una trattativa convincente per i suoi per i cittadini britannici e per i suoi elettori, che decisero con numeri molto importanti di mandare al governo e anche cambiando gli equilibri parlamentari Boris Johnson. Ricorderete lo slogan che sicuramente contribuì alla sua vittoria schiacciante nel dicembre solo dello scorso anno, naturalmente in epoca pre-Covid: Get Brexit done, e facciamola questa Brexit. E sostanzialmente potremmo tradurre, appunto, sono passati più di 4 anni e verso questo si va, una rottura con l'Unione Europea. Vi dicevo, quindi pagine 2 e 3, tutti i dettagli sui decreti ristori. Corriere della Sera è un virgolettato, perché Corriere della Sera oggi ha due interviste, una al leader del PD nonché presidente della Regione Lazio Zingaretti, che dice: serve un rilancio al governo. Niente crisi al buio, Conte chiede di scoprire le carte. E poi invece, richiamata in prima pagina, ma non è il titolo proprio, ma l'ha richiamata in prima pagina, un'intervista di Paola Di Caro a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Non capisco Salvini, questo il sunto, tre parole per il richiamo in prima pagina. E la foto, però, la fotonotizia, come una scelta che fanno anche altri giornali, è quella dei funerali di ieri, che ci sono stati, di Paolo Rossi, che si sono svolti ieri. Quindi da una parte i suoi ex compagni di squadra, ma quasi tutti rimasti molto legati anche proprio da veri e propri rapporti di amicizia con Paolo Rossi, che è morto di un tumore 3 giorni fa, e in primo piano si distingue Marco Tardelli e Giancarlo Antonioni, e poi subito dietro Antonio Cabrini e tanti altri, appunto, non solo compagni di quella mitica nazionale che nel 1982 vinse il campionato del mondo di calcio, ma anche altri compagni di squadra e amici. La Repubblica, la verifica di Natale, la verifica. Conte in forma Mattarella ci sarebbe stato, come è costituzionalmente corretto, nella Costituzione non sta sicuramente scritto che ci sono le verifiche e i rimpasti, però l'attuale Premier naturalmente deve rendere conto se ci sono venti di crisi al Presidente Mattarella, al quale eventualmente spetterebbe l'onere di sciogliere le Camere. Quindi Conte informa Mattarella, gli incontri con i partiti già in settimana per superare le liti nella maggioranza. Tommaso Ciriaco, a pagina 4, firma un inquietante, direi, retroscena viene richiamato in prima pagina. Perché dico inquietante? Perché alcune questioni importantissime in questo momento, abbiamo citato la Brexit che ci coinvolge, ci sono le domani si vota negli Stati Uniti, c'è il passaggio formale del voto dei grandi elettori che sanciranno la vittoria definitiva di Joe Biden, e poi c'è la questione che riguarda molto da vicino l'Italia, che è quella, la vedremo su alcuni giornali, dei pescatori ancora in prigione in Libia. Ma Di Maio, ci racconta Tommaso Ciriaco, è al bivio. Se cade il Premier, tocca a lui. È un retroscena, però vi ripeto, io l'aggettivo che trovo è inquietante che l'attuale ministro degli esteri stia lavorando, secondo Tommaso Ciriaco, che è molto informato sui retroscena di Palazzo, a questa ipotesi. Poi in prima pagina anche un intervento di Corrado Augias, che di Repubblica è collaboratore di lungo corso, anche una rubrica, ma oggi scrive a Repubblica e si rivolge al direttore di Repubblica Maurizio Molinari: per la questione Giulio Regeni restituisco alla Francia la Legion d'Onore. La Legion d'Onore è un'onorificenza che la Francia appunto concede a personalità non francesi di spicco, in questo caso della cultura, per il rapporto di lunga data che Corrado Augias ha con la cultura francese. Ma appunto, siccome lo ricorderete, settimana scorsa il presidente Macron ha ricevuto con tutti gli onori il presidente egiziano Al-Sisi, e da qui questa mossa di Corrado Augias, che è ovviamente simbolica, però come tutte le mosse simboliche possono anche avere un effetto di sostanza, e vedremo se ci sarà qualche reazione. Anche per Repubblica la foto di prima pagina è quella di Tardelli, Cabrini, Antonioni, ma anche tanti altri perché ovviamente per portare la bara erano in sei in realtà, che tra gli altri hanno portato a spalla il feretro di Paolo Rossi. I due editori della domenica, quello del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, Massimi Sistemi, La vita, la fine, la verità e la politica. E invece Maurizio Molinari, vi dicevo appunto, questa che arriva è la settimana che si apre con il voto definitivo degli grandi elettori, che sapete, per il cosiddetto Electoral College, cioè quel passaggio formale in cui gli Electoral Votes, che sono quelli che fanno riferimento ai singoli stati e che devono raggiungere, sapete, abbiamo imparato a saperlo, quella soglia dei 270 per dare la vittoria a uno dei due candidati, sono in realtà molto più di 270. Domani ci sarà questo passaggio formale e quindi il presidente Joe Biden resterà presidente eletto fino al giorno dell'inaugurazione, il 21 gennaio, ma scrive Maurizio Molinari, il fattore saudita nella strategia di Biden. Quindi abbiamo visto questa settimana un altro successo dell'amministrazione Trump, la normalizzazione dei rapporti di Israele con il Marocco, che si aggiungono a quelli della normalizzazione con gli Emirati Arabi Uniti, e poi naturalmente la grande alleanza, quella è di più lunga data, degli Stati Uniti con l'Arabia Saudita. E da qui, visto che sullo scacchiere medio orientale si stanno muovendo tante cose, con tra l'altro l'incubo, dico incubo per gli israeliani perché stanno battendo il record italiano di elezioni anticipate in una stessa legislatura, e con appunto le elezioni in Israele incombenti, sullo scacchiere medio orientale in questo momento molte novità, e da qui l'editoriale di Maurizio Molinari. La Stampa, L'apertura, il governo allenta la stretta, i virologi, sarà una terza ondata. E poi anche qui Di Maio, protagonista del retroscena, questo lo firma Ilario Lombardo, anche questo richiamato in prima pagina. Un lapsus di Di Maio fa tremare il palazzo. La scelta della parola lapsus poi per me è incomprensibile. Di Maio avrebbe detto, quindi forse non l'ha detto, però secondo questa ricostruzione l'ha detto, che ai 5 Stelle, che non teme il rimpasto, perché comunque in un eventuale nuovo governo lui sarà di nuovo ministro. E sarebbe un lapsus? No, è una sua convinzione di Di Maio. E Ilario Lombardo, sarà vero o non sarà vero non lo sappiamo, ma lo riporta. L'editoriale di Massimo Giannini è secondo me interessantissimo, perché fa il doloroso confronto tra la situazione dell'Italia e quella della Germania in termini di numeri, quindi numero di morti, numero di contagiati, numero naturalmente di morti e di contagiati in proporzione alla popolazione, e soprattutto fa il confronto tra chi guida la Germania, che è Angela Merkel, e chi guida l'Italia. Vi leggo le prime righe. Le lacrime di Angela e le nostre. Angela poi sarebbe. Non voglio fare l'anti-italiano, ma fa un certo effetto vedere l'abisso che separa le lacrime pubbliche di Angela Merkel dalle miserie politiche di casa nostra. Da un lato c'è la dolente solennità della cancelliera, che si rivolge commossa al popolo, al popolo tedesco, lo ha fatto in Parlamento, ma l'ha fatto anche in altre occasioni, in questo caso però queste lacrime sono le più recenti, quelle appunto mentre illustrava le ulteriori restrizioni, per invocare il rispetto alle regole e limitare la tragica contabilità dei caduti nella guerra contro il virus. Dall'altro c'è la desolante irresponsabilità dei nostri leader, che si offrono garruli in pasto a un'opinione pubblica impaurita per litigare su crisi e rimpasti, verifiche, cabine di regia, unità di missione e task force. Con questo non voglio negare che anche la Germania abbia i suoi guai nella gestione dell'emergenza, ce li ha e come, tanto che proprio stamattina è previsto un vertice tra la Kanzlerin, Angela Merkel, e i rappresentanti dei 16 Länder, per capire cosa non sta funzionando nelle misure di restrizione varate finora. E poi si prosegue, perché come sapete in Italia è tutto diverso, con anche quella farsa, citiamone una, visto che sono stati citati i Länder, ma la Germania è uno stato autenticamente federale. Sapete che l'Abruzzo, che era zona rossa, avrebbe potuto passare zona arancione, ma presidente della regione l'ha fatto di sua spontanea volontà, con qualche giorno di anticipo. Allora è intervenuto il TAR e ha riportato l'Abruzzo in zona rossa. Poi però, ufficialmente, con i dati ufficiali, l'Abruzzo è ridiventato zona arancione, quindi per un giorno sarà zona rossa, con il contorno di burocrazia che c'è. Questa è l'Italia delle regioni, del titolo quinto, e poi c'è la Germania dei Länder. Avvenire, l'ONU per il clima, stato di emergenza. Questo, l'Avvenire è l'unico giornale che apre su questo, ma se pensate è il tema che ci riguarda, oltre alla pandemia, che riguarda tutti, ma non tutti allo stesso modo, perché ci sono alcuni paesi che comunque oggettivamente nel mondo sono stati meno colpiti di altri, invece i cambiamenti climatici ci colpiscono tutti. E quindi c'è anche un appello del Papa: urgente una cultura della cura per la nostra casa comune, cioè il pianeta. Sono i più poveri a soffrire. Ultima prima pagina, prima di una pausa in cui sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. Il Giorno, che unico giornale a dirlo con questa chiarezza, potrebbe essere così, lo speriamo tutti, vaccinazioni al via dall'11 gennaio. Si parte con 1,8 milioni di italiani, sanitari e operatori delle RSA, le residenze per anziani. Per Natale e Capodanno si va verso l'apertura tra comuni vicini, Conte vuole allontanare la crisi di governo. E poi la foto però anche in questo caso è stata scattata ieri ai funerali di Paolo Rossi, i ragazzi dell'82. Ci lasciamo un attimo per la pausa che dicevo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp. E ha ragione l'ascoltatore che dice Auge si è indignato non solo perché Al-Sisi, presidente egiziano, è stato ricevuto da Macron all'Eliseo, ma perché gli è anche stata data la Legion d'Onore, quella appunto che Corrado Augias si appresta a restituire. Ci restano alcune prime pagine da vedere. Il Messaggero: spostamenti solo tra paesi con la P minuscola, perché si intende probabilmente piccoli centri o comuni. Deroga ai divieti di Natale e Capodanno. Ripeto ancora una volta, non c'è nulla di scritto sulla pietra per ora, o semplicemente nero su bianco, sono tutte ipotesi, perché c'è questo tema. È il Ministro della Salute Speranza che ha voce in capitolo, ma non ha il diritto né di imporre queste misure né di levarle, ha detto che lui è contrario. Conte ha detto che deve decidere il Parlamento, quindi avverto, insomma, leggo questo titolo perché è il titolo del Messaggero, ma non ci sono certezze al momento. La fotonotizia anche per il Messaggero è quella dei funerali di Paolo Rossi, e c'è anche la notizia che mentre si svolgevano appunto i funerali, la sua casa in Toscana è stata derubata. Qui si spreca l'uso della parola sciacallo, iena, avvoltoio nei titoli. Viene sempre da ridere quando dico se fossi direttore, perché non sarò mai direttore di niente, però se fossi direttore, ecco, un piccolo veto che imporrei è di non usare questi paragoni assurdi con i comportamenti degli animali, perché nessuna iena, sciacallo o avvoltoio farebbe appunto un atto del genere. Loro seguono la loro natura e tra l'altro hanno anche un ruolo utilissimo negli ecosistemi. Ma comunque, fatto questo piccolo inciso, visto che abbiamo parlato prima di clima e della nostra casa comune, come la chiama il Papa, il pianeta, che naturalmente include tutte le forme di vita, compresi tutti gli animali. E dalla prima pagina del Messaggero vi segnalo un interessante approfondimento che poi trovate a pagina 11, con un commento di Maria Latella, che tra l'altro naturalmente sentirete alle 10 qui a Nessuna è Perfetta. La vicenda è questa, che il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, è stata multata con 90.000 euro per aver ecceduto con le dirigenti, superando i rigidi limiti della legge sulle quote rosa. Parigi, multa beffa alla sindaca, troppe donne sono dirigenti. E c'è appunto l'articolo di Francesca Pierantozzi, che poi trovate a pagina 11, e il commento di Maria Latella, pagina 27. Il Fatto Quotidiano apre su un'inchiesta che poi trovate alle pagine 6 e 7 interne. La Lega ti nomina e tu le ridai il 15%, i documenti su 20 anni di sistema, soldi e poltrone. Libero, la Buongiorno incastra Conte. Questa è l'altra grande notizia di, diciamo, interna di ieri, cioè c'è stato un'udienza del processo a Matteo Salvini per la nave Gregoretti. Alcuni giornali aprono su questo, ma la cronaca la trovate su tutti i giornali. Libero, appunto, svolta nel processo al leader leghista, l'avvocato di Salvini, perché Giulia Buongiorno, oltre ad essere parlamentare, è anche l'avvocato di Matteo Salvini, tira fuori, e quando nel primo governo Conte era anche ministro per la pubblica amministrazione, l'avvocato di Salvini tira fuori un video che inchioda Giuseppe Conte alle sue responsabilità. La decisione di non sbarcare i clandestini era collegiale. Questa è una cardine della difesa di Matteo Salvini fin dall'inizio, cioè il leader leghista, ex ministro dell'interno, ha sempre detto io vado a processo, ma in realtà per una decisione che era stata collegiale. E poi c'è stato questa risposta di Toninelli a domanda, gli hanno fatto vedere un provvedimento che aveva firmato e ha risposto non ricordo. Il Giornale: Toninelli smemorato, eccolo qua, ministro a sua insaputa, scena muta al processo. E vi segnalo però dalla prima pagina del Giornale un interessante editoriale di Paolo Liguori, che in questo momento è giornalista di Mediaset ma è anche editorialista del Giornale, che ci racconta, visto che abbiamo parlato, ne ha parlato Massimo Giannini sulla Stampa, che diciamo è un giornale orientato in un modo diverso da Il Giornale, e racconta appunto due personaggi chiave di questa attuale classe politica, nel senso classe di governo, ecco, diciamo così. Massimo Giannini l'ha definita le nostre miserie politiche. Ecco, qui c'è un ritratto di quello che Paolo Liguori definisce il governo Casalino Arcuri. Casalino, lo sapete, è il portavoce di Giuseppe Conte, mentre Domenico Arcuri è il commissario straordinario per l'emergenza Covid, nonché commissario straordinario per l'ILVA, nonché comunque ancora oggi amministratore delegato di Invitalia, scrive Paolo Liguori. Come nelle guerre, la preoccupazione e la tensione portano in evidenza i danni più diretti e i cosiddetti danni collaterali. Anche nel caso del Covid siamo da quasi un anno sulle vittime, sugli ammalati, sulle strutture sanitarie insufficienti, ma anche sulla crisi economica, sulla disoccupazione, la cassa integrazione, le attività interrotte, la scuola che non c'è. Il racconto di guerra non è costruito solo su errori e tragedie, ci sono personaggi che crescono nelle pieghe del dramma e spuntano sul palcoscenico ingranditi rispetto al ruolo precedente. Sono i giganti del Covid dei quali vorrei occuparmi, che sono andati molto al di là del loro ruolo istituzionale e hanno costruito un profilo e una carriera destinati a durare oltre la cronaca. Questa è la previsione di Liguori. Tralascio i fin troppi numerosi scienziati che in questi mesi sono passati dagli italiani malati a quelli sani, dai luoghi di cura ai salotti e tinelli. Hanno guadagnato popolarità, ma il loro ruolo non sarà eterno. I giganti del Covid che vorrei citare sono due persone che in questa crisi sono andate ben oltre il ruolo istituzionale e hanno avuto successo proprio per questo: Domenico Arcuri e Rocco Casalino. E appunto, se volete, trovate questo ritratto che poi inizia in prima pagina e prosegue a pagina 5 di appunto Casalino e Arcuri. La verità, Toninelli ridicolizzato in tribunale. E poi un approfondimento di Francesco Borgonuovo, che è vice direttore della Verità, e ricorda, e lo fa secondo me a ragion veduta, che noi in Italia abbiamo il record europeo di morti e abbiamo anche una percentuale di morti sui contagiati che è la terza nel mondo. È un dato che andrebbe spiegato ogni giorno, perché è talmente grave che appunto, siccome il ministro Speranza più di una volta ho sentito dire che la prima causa di questo è l'età media della nostra popolazione, è purtroppo molto comparabile la demografia italiana a quella tedesca, che ovviamente è in una situazione molto diversa. Quindi questa è una spiegazione completamente insufficiente. Il tema è quello della sanità, che il sistema sanitario nazionale, che come ripeto sempre è comunque uno dei più dei migliori al mondo ed è ancora sostanzialmente pubblico, però era impreparato all'emergenza. E tra l'altro c'è un altro tema interessante che è legato invece all'emergenza Covid in tema più stretto in prima pagina sulla Verità, è un articolo di Antonio Grizzuti, un esclusivo della Verità, il documento che ha convinto i giudici per usare la clorichina contro il Covid. Poi in realtà anche su questo ci sono ancora molti pareri discordanti, quindi direi che siccome per ora i pareri tendono a concordare sulla efficacia dei vaccini, forse è caso di concentrarsi su quello, su quali cure siano più efficaci. Invece pare ci sia ancora molta strada da fare. Il manifesto Zaki chiama, il riferimento naturalmente a Patrick Zaki, che ha scritto alla famiglia dalla sua cella: sto male, le ultime decisioni sono incomprensibili. Sapete che è stato confermato la sua carcerazione il 7 dicembre, ha confermato il carcere al Cairo, è stato confermato il carcere per lui e altre 750 persone, una al minuto. E poi naturalmente c'è la questione di Giulio Regeni, avrete sicuramente sentito il rapporto di chi sta indagando in Italia sull'assassinio di Giulio Regeni, ma bisogna anche inserirlo in una situazione che è appunto quella dell'Egitto, di assoluta mancanza di rispetto per i diritti umani. E il nuovo rapporto di Giulio Regeni d'Egitto svela un'altra atrocità del regime a cui l'Italia e altri paesi vendono armi. Sappiamo, la Francia ha appena conferito la Legion d'Onore al presidente di questo paese. 1058 morti in prigione dal 2013. Il domani, l'ultima prima pagina che ci resta, il quotidiano diretto da Stefano Feltri in edicola dal 14 settembre, il più giovane quotidiano italiano. Come sempre sapete, la prima pagina è fatta da due articoli. Questa domenica è un reportage, un articolo che ci riporta sulla nave Gregoretti di Gaetano De Monte e Giovanni Tizian. Così Salvini teneva i migranti tra i sacchi della spazzatura. Un rapporto dei carabinieri svela le foto dall'imbarcazione della Guardia Costiera che l'allora ministro dell'Interno ha bloccato in mare nel 2019, per il quale, sapete, sta, appunto, è andato a processo e ieri c'è stata quest'udienza. Per quelle scelte il leader della Lega è ora a processo. E l'altro articolo, Stefano Feltri, il pericoloso desiderio di tornare subito alla normalità, pranzi di Natale e Airbnb, perché Airbnb, oltre ad essere stata protagonista questa settimana di una IPO, Initial Public Offering, debutto in borsa da record, ha visto anche ricominciare a salire vertiginosamente le prenotazioni. Sapete, Airbnb si occupa di affitti brevi. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ancora buona domenica, grazie ancora per l'ascolto, per i messaggi. Ce ne sono alcuni sui vaccini che un ascoltatore invita, anzi auspica che noi giornalisti si sia tra le categorie obbligate a essere vaccinate. Guardi, io personalmente, perché poi generalizzare è una cosa che proprio cerco di non fare, anche se a volte è inevitabile, quindi i giornalisti, io come persona però prima di tutto, ma subito lo farò il vaccino quando sarà stato autorizzato, quando sarà distribuito, senza voler passare davanti a nessuno. Non mi considero sicuramente una categoria che ha bisogno di una priorità. Le priorità sono gli anziani. Abbiamo visto, l'unico paese dove è già stata avviata la vaccinazione della popolazione e il Regno Unito, hanno iniziato proprio dagli anziani. Poi ci sarà tutto il personale che lavora nella sanità. Quindi non si preoccupi, anzi, ma mi viene da ridere, come se io potessi essere testimone della vaccinazione, ma vabbè. Andiamo ai giornali, alle pagine interne, torniamo sul Sole 24 Ore. A proposito di Regno Unito e di Brexit, Beda Romano, pagina 5 del Sole 24 Ore, Brexit, Europa e Regno Unito sul baratro del no deal. E qui è molto interessante questa pagina perché scende nel dettaglio proprio di che cosa succederà: tariffe, dogane, trasporti, cittadini dell'Unione Europea, sicurezza e terrorismo, con questi bullet point, come li chiamano in inglese, a cura di Nicole degli Innocenti, che è la corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. E poi i contraccolpi per l'Italia, qui di Luca Orlando, alimentare, abbigliamento e arredo, i settori più esposti. Il mancato accordo, quello di cui abbiamo parlato prima, una hard Brexit o una Brexit no deal, comporterebbe 3,7 miliardi in meno di esportazioni. Poi vi segnalo dal Sole 24 Ore un interessantissimo approfondimento di Alessandro Plateroti, peraltro gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscono bene, interviene a Focus Economia, è stato a lungo vice direttore del Sole 24 Ore, e questa inchiesta si intitola La rivoluzione nel valore societario, la ripresa degli Stati Uniti arriva con la benzina degli asset invisibili. Nel 2021 il 100% del valore finanziario della più grande economia al mondo sarà fatto di brevetti, algoritmi, software e proprietà intellettuale. Ora Washington include questi beni nel PIL con un impatto del 3% per il 2020. E poi un bellissimo a tu per tu di Gabriele Meoni con Paolo Cerruti, che è cofondatore di Northvolt, perché sapete c'è questa svolta verde che passa anche per la riconversione di molti mezzi di trasporto, a partire dalle auto naturalmente, a un sistema di alimentazione elettrica. E appunto il cofondatore di Northvolt, che dice: auto elettrica pronta a sfondare come gli smartphone 20 anni fa. E Paolo Cerruti racconta perché la sfida europea ai big asiatici delle batterie al litio si gioca in Svezia e non in Italia, dove costi energetici, instabilità politica e pubblica amministrazione sono un freno. E c'è anche naturalmente un cenno a Elon Musk, che è un po' il faro per chi, l'imprenditore, il fondatore di Tesla, per chi lavora o mette le sue energie personali o di manager nel settore appunto della riconversione elettrica. E Paolo Cerruti dice: Elon Musk ti costringe a spingere sempre più in là i confini di ciò che credi possibile. le pagine di Lifestyle che escono ogni domenica con il Sole 24 Ore, Maria Teresa Montaruli ci racconta l'inverno delle ciaspole. Sulla neve fresca, la chiusura degli impianti di risalita porterà oltre 500.000 di adepti, percorsi mozzafiato da Livigno alla Maiella in Abruzzo, dalla Val d'Aosta all'Alto Adige. Vi dicevo, i numeri che rendono l'Italia una anomalia in Europa, siamo il paese con più morti in Europa, l'analisi di questi numeri a pagina 13 del Corriere della Sera. E poi, no, di retroscena su Di Maio me li risparmio. Questo è un altro tema. Abbiamo parlato di Biden, ieri negli Stati Uniti è arrivata una sentenza importantissima della Corte Suprema, che sapete ha 9 giudici, 6 dei quali sono conservatori e 3 dei quali nominati da Trump, e ieri la Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato formalmente dallo Stato del Texas, ma che raccoglieva avrebbe portato a un riconteggio, anzi a un rifiuto dei conteggi dei voti in altri stati. Trump, bocciato dalla Corte Suprema, ora punta sul 2024. Domani la proclamazione della vittoria di Biden, dicevamo. L'articolo è di Federico Rampini, ma trovate anche su giornali che sono stati sempre molto favorevoli a Trump la stessa notizia, più o meno con gli stessi toni, perché una notizia è una notizia, ed è questa, che la Corte Suprema ha bocciato questo ricorso di Trump. Ultimissima segnalazione dalla Repubblica, una bella intervista di Natalia Aspesi a Rosita Missoni, quindi una decana del giornalismo che intervista una moglie naturalmente del defunto Ottavio Missoni, insieme al marito hanno costruito questo marchio e questa azienda, e dice: dedico il 2021 al mio Ottavio. Passiamo ai supplementi. C'era un'ultima intervista che volevo segnalarvi, perché per chi ha la forza è proprio da mani sul volante di leggerla, sul Fatto Quotidiano, a Ranieri Guerra, che è stato a capo della prevenzione del Ministero della Salute dal 2014 al 2017, da allora direttore generale aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e sapete avrebbe dovuto mettere a punto un nuovo piano pandemico per l'Italia, non l'ha fatto, ha chiesto poi, ci sono le mail a dimostrarlo, complottismo, ha chiesto ai suoi di cancellare, sbianchettare proprio quella data per far credere che il piano fosse stato aggiornato al 2016. Non era naturalmente un piano pandemico che avrebbe potuto salvarci dagli effetti del Covid, ma era comunque un piano pandemico. In assenza di piano pandemico le difficoltà sono aumentate. Questa intervista sul Fatto Quotidiano, dossier Italia, molti errori ma io non l'ho censurato, e ci vuole veramente molto coraggio a dirlo, perché anche qui ci sono delle mail mandate da Ranieri Guerra, che chiede a tutti di censurare questo dossier della sua stessa organizzazione, l'OMS, che evidenziava tutte queste falle della reazione dell'Italia allo scoppio del Covid, che in qualche modo erano uno dei motivi, era sicuramente anche l'assenza di questo piano pandemico. Abbiamo proprio tempo, poco più di un minuto, per la segnalazione della prima pagina della domenica del Sole 24 Ore. Parto dal breviario di Gianfranco Ravasi, come sempre, che si intitola Focolare, e parte da una citazione di Vincent van Gogh, che è questa: uno può avere un focolare ardente nell'anima e tuttavia nessuno viene mai a sedersi accanto. I passanti vedono solo un filo di fumo che si alza dal camino e continuano per la loro strada. Scrive Ravasi: pochi sanno che il grande artista Van Gogh, oltre ad avere un'anima tormentata e un cuore tempestoso che lo portò a 37 anni nel 1890 a tirarsi un colpo di pistola che lo uccise dopo un'agonia di 2 giorni, fu una persona mistica, pronta a evangelizzare poveri, minatori, ragazzi, a comporre intense preghiere a Cristo. Le parole citate dipingono una sorta di autoritratto nel quale però molti possono rispecchiarsi. In una casa il focolare avvampa come un fuoco scoppiettante, il calore si diffonde per tutte le stanze, le fiamme illuminano l'oscurità della notte. Fuori si distende una strada, percorsa da vari viandanti infreddoliti, solitari e immersi nella tenebra. Non badano alle finestre della casa con i loro bagliori, gettano solo uno sguardo al comignolo dal quale esce un filo di fumo. Percepiscono l'odore della legna che arde, ma proseguono lungo la loro strada. Quel focolare incarna il destino di molti che vorrebbero donare amore, ma all'uscio della loro casa nessuno batte un colpo. E così si arriva a quelle folle di solitudini che popolano circolano le nostre città, allo scialo di amore e di bene che viene disperso nell'aria come fumo. Ultimissime due parole, la copertina vera e propria è un articolo di Giorgio Vallortigara dedicato all'illusionismo. Il trucco c'è e abita in tutti noi. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.